luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati. Oggi vorrei visitare con voi un luogo molto affascinante, la villa Necchi Campiglio di Milano, una delle proprietà del FAI. La villa in questi mesi ospita una mostra particolarmente interessante dedicata ad Alfredo Ravasco, quello che venne definito il principe degli orafi. Ravasco infatti è stata una delle personalità della Milano soprattutto tra gli anni 20 fino agli anni 50 inoltrati, che ha fornito gioielli a tutta l'aristocrazia, la borghesia, ma non solo gioielli, ha fornito degli oggetti d'arredo caratterizzati da una mirabile composizione di preziosità dei materiali e di fantasia nella composizione. La mostra infatti raccoglie questi oggetti d'arredo sparsi per tutta la casa che fu delle sorelle Necchi, e quindi si passeggia in questa casa della Milano borghese tra le due guerre, osservando qua e là sui mobili, nei bagni, questi oggetti mirabolanti. Erano soprattutto scatole fatte in pietre dure, usava il lapislazzolo, usava la malachite, usava il cristallo di rocca, usava le agate, cioè le cose più preziose, e le combinava con altre pietre preziose per fare degli effetti speciali. Per esempio inseriva animali, pesci, frutta, tutto incastonato in questi oggetti, che hanno una caratteristica fondamentale, sostanzialmente di non servire a nulla. Era solo la gioia di possedere cose belle, cose preziose da poter naturalmente far ammirare alla propria famiglia e ai propri ospiti. Tra le cose più curiose che la mostra raccoglie c'è una piccolissima lente, naturalmente fatta con il manico di corniola, quindi una cosa preziosissima. La cosa singolare è che la lente non ingrandisce ma rimpicciolisce, quindi questo signore realizza un oggetto che non serve assolutamente a nulla, e alla domanda che cosa poteva servire questo oggetto pare che l'orafo rispose: a nulla, l'importante che sia sullo scrittoio di una signora per bene.